Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantaneda in redazione, Nicolò Rinaldi in regia. Vedo che c'è già Coach Peterson collegato e io qui con me invece c'è Werther Pedrazzi. Buon pomeriggio Werther. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai tuoi ascoltatori. Ciao Coach. Ciao ragazzi, Werther, un abbraccio. Un abbraccio anche a te Coach. Come stai Coach, tutto bene? Bene, venerdì è spuntato il sole a Milano che minacciava del peggio, però dicono che ci sarà brutto tempo fino a mercoledì più o meno, fine mese. E questa non è una notizia, così come non è una notizia il più 30 di Siena su un Avellino ormai in vacanza, dicevo con l'infradito ai piedi la settimana scorsa. Microwave Carraretto, questa l'hai inventata tu, quella del microwave, a proposito di un, di un altro giocatore, Carraretto, che però leggi il tabellino 23 con 10 su 11 al tiro in una partita comunque di Serie A, sono numeri, eh? Sì, ma lui è bravissimo, cara. Poi la microonda, la microwave non l'ho inventato io, è stato qualcuno in America per Vinnie Johnson. Giocava ai Detroit Pistons, però ovviamente l'ho rubato come ho rubato altre cose, ok? Quindi è una mia specialità questo qui, però Carraretto, ma la bravura di Carraretto è che lui sa aspettare il suo momento, scegliere il suo luogo per fare le cose, cioè veramente è un killer designato, nel senso che uomo giusto per momento giusto nella situazione giusta, cioè proprio un grande professionista lui, quindi non mi sorprende niente. Certo, invece domenica Milano ha giocato la seconda partita più importante della sua stagione, Coach, mi pare. Yeah, wow. Dopo la vittoria di Siena, questa su Cantù, stremata e acciaccata, però pur sempre Cantù. Well, bisogna dire che cioè, quello di contro Siena è successo un po' di tempo fa, questo invece è successo recentemente, qui nel barometro prendiamo la temperatura corporea della squadra di Milano adesso e indica qualche progresso, cioè proprio che la squadra sta facendo le piccole cose. Inizio disastroso come sappiamo, che c'è proprio 8 minuti e mezzo, 2 soli punti, sembrava Ciappanoli per un attimo, poi ovviamente si sono svegliate da questo torpore, sono andati lì bene in attacco, 29 punti nel secondo quarto, questa è la cosa che indica qualcosa a Milano, che loro giocano difesa, perché lì Scariolo, grande coach difesa, Mario Fioretti, anche lui c'è. Però vedere loro sciogliersi bene in attacco, questo sì. Io sono Sergio Scariolo, sono felice per questo. Coach, posso farti una domanda agganciandomi alla tua grande operazione che forse pochi conoscono di archivista, stai raccogliendo è una cosa meravigliosa, di un'importanza incredibile, poi Carlo se vuole ne parlerà. Ho ricevuto proprio ieri o l'altro ieri il video della grande rimonta storica su Aris. Ecco, una domanda. In settimane si è parlato molto della EA 7 che arriva a più 20 quando mancano ancora 13 minuti alla fine dell'incontro e 6 punti al ribaltamento della differenza canestri, aveva perso di 25 all'andata. Lo ritieni un segnale di superficialità oppure no. come la pensi, no, francamente? Ma innanzitutto bisogna avere una lettura della partita, perché in questa partita stessa, come ho detto io all'inizio, disastroso, e quando tu superi nella partita un disastro come hai superato loro, cioè veramente bene, cioè l'ultima cosa, l'ultimo pensiero che hai è di vincere per 25, 26 è quello che ci occorreva, okay? Come dicevo io anche prima della partita, lo dico qua, io dico prima di ogni partita importante, dicevo anche la mia squadra, come sai, voglio vincere questa partita anche per un solo punto. Io non volevo la matematica dei calcoli, la gente che guardava il tabellone, no, non guardare il tabellone, guardare il canestro. Far canestro, far 40 minuti. Milano ha fatto questo. Poi tu spendi un patrimonio di energia di rimontare da 2 a 9, con 2 punti in 8 minuti e mezzo. andare anche a più 17, cioè è anche logico, hai speso un patrimonio di energia fisiologico, cioè in questo senso qua, che andare da più 17 a più 26 non è più umanamente possibile. Avessero cominciato loro 9-2, certo, magari potremmo parlare di questo, però quando tu devi superare un scoglio così non è no, più facile. Ti dico solo che i punti non erano 17 ma 20, 55-35, no, anche 20. E che Cantù, mi sembrava, non me ne vogliono gli amici canturini, ma per assenze e per infortunio di Liuni mi sembrava abbastanza ormai ridotta all'osso, ecco, questo era. Ma non dimenticare che Cantù ha giocato giovedì la partita, esatto, della vita, esatto, okay? Esatto. E quindi non aveva più il Mazzarino e il Basile di giovedì. Esatto, questo è stato per loro un problema, bisogna dire, cioè, ne so io qualcosa di questo qui. Nel 76, quando aveva la Virtus, abbiamo vinto a Varese, grande vittoria. Varese giovedì sera ha fatto una partita contro Real Madrid che Varese sembrava meglio di Boston Celtics, e avessero avuto loro, parlavo con Gamba che allenava Varese l'altro ieri e ci siamo visti, ok, avessero avuto loro un'altra 24 ore, una notte di sonno, cioè così, a giocare con noi avremmo vinto probabilmente, anzi assolutamente. Quindi tutti i fattori vanno, ovviamente il fattore contro, non sto sminuendo questo, Milano ha fatto una grande cosa di vincere questa partita, certo, però bisogna anche considerare tutti i fatti attenuanti. Adesso è il momento del tweet, come sai, caro Cos, perché ragazzi, non ci scappi, non ci scappi mai con Franco Piantaneta che ti segue passo per passo. Tweet del coach. Qualcuno dica a Mikhail Prokhorov, il proprietario dei Brooklyn Nets, che sono pronto a sfidarlo in un incontro di kickbox. Io 1,68 m, 76 anni. Lui 2,04 m, 40 anni. Sarebbe un bel match. Devi smettere di darmi pugni. Non sono mica un pugile. Cos, ma perché vuoi fare a botte con Prokhorov? È stata una battuta, ma come sa avverte ogni tanto dico delle stupidate tante per dirle, ok? È il divertimento, ok? Hey, Prokhorov, tu hai 40, io 76, tu sei 2,04 m, penso io, 1,68 m non ci arrivo, ok? Più 1,65 m, allora sarebbe a fair fight, vuol dire un incontro a pari, hai capito? Sì. Cioè, scherzando con questo, per dire che non ho paura di te, ok? Tu sfidi Mark Cuban, sfidi me, se mi dai un premio giusto, io vengo e puoi anche dare dei botte, ok? Quindi, e allora chiamiamo Don King e organizziamo l'incontro, Ma quando eri alto 1,90 m, sarebbe stato più esatto, equa. Esatto, come la mia autobiografia, quando ero alto 2 metri, cioè per dire, guarda come sono ridotto adesso, però, mi piace scherzare, fare le battute su questo qui. E noi ti becchiamo tutte le volte, grazie coach. Voi siete peggio della CIA, ok? Grazie coach, sentiamo ciao, ragazzi, venerdì. Un abbraccio, ciao, grazie. Ciao coach Peterson. Ciao. Palla spicchi. Ecco che torniamo con Werther Pedrazzi, con tutti quelli che vorranno intervenire anche al telefono 800 24 00 24, oltre che attraverso i messaggi 349 238 6666. A proposito di messaggi in bottiglia, dimmi di questa di Coach Peterson, archivista, sta raccogliendo materiale sulla Milano del basket, ma video compreso. È un irrequieto, non può stare fermo, e qualcuno dice che è grande coach, ma che la sua vera natura era quella di enigmista archivista, e sta inondando tutti di mail perché sta costruendo un archivio storico innanzitutto dei settori giovanili di Milano, tutti i giocatori, ma non solo, per esempio c'è un medico affermato che ha giocato nelle juniores di Milano, sta raccogliendo proprio gli archivi delle giovanili di Milano. Quindi dirama, non so, probabilmente 300-400 mail al giorno, ma ti assicuro. E poi, non contento, sta aprendo un canale collaterale a questa sua ricerca e sta raccogliendo da privati, dalle società, tutti i video della sua Milano. Della sua Milano, sì, incapace di star fermo, coach Peterson. Senti, Werther, torniamo a Milano Cantù. Dicevo, Cantù stremata, acciaccata, ha giocato la partita della vita 2 giorni prima, senza giocatori, però può essere anche un campanello d'allarme, perché nei playoff sarà così, la vita nei playoff sarà così, e io continuo a sognare una Cantù competitiva con Siena, perché mi piace da morire Cantù, il suo gioco, il suo spirito, la sua idea, la sua filosofia. Temo però che se la squadra non riesce a reagire, non riesce a trovare comunque un modo di vivere questo stress, sarà difficile. A parte il fatto che poi io continuo a sognare una sfida Siena-Cantù, non in finale al meglio delle sette, che è un'imboscata da cui non esci vivo, ma magari in semifinale. Guarda, è stato proprio la cartina di tornasole, e non me ne vogliono i tifosi canturini che hanno tratto, ero c'era con alcuni di loro, hanno tratto anche auspici favorevoli da quella sconfitta, ma non è tanto gli infortuni e le assenze, che poi riprenderemo, Scemardini, Mizov, uomini nei loro due ruoli, cioè, come dire, essenziali, no? Non Beh, solo certo, titolari, chiaro. Direi qualcosa di più che titolari, ma è stato proprio l'assoluta diversità, le facce diverse di Mazzarino e Basile, perché considerato l'impatto che loro hanno sulla partita e l'età anagrafica, è difficile arrendersi a questo quando si ha a che fare con campioni che hanno un grande orgoglio, una grande dignità, una grande determinazione, ma due partite in tre giorni si è dimostrato che non sono in grado di reggere. In più, il vero problema, io credo che legittimamente la Bennett si ponesse come un'alternativa o come papabile finalista, però gli infortuni a lei stanno arrivando nel momento, a capire, la fase critica, nel momento in cui si va verso i playoff. Mentre Siena, beh, fisiologico, con lo stress dell'Eurolega, con, no? Lo stress dell'Eurolega probabilmente sì, ha accumulato anche quello. Però mentre Siena, ad esempio, che è stata tormentata da infortuni in stagione, piano piano li sta risolvendo. Probabilmente per i playoff rientrerà Kaukenas, adesso sta provando Maciulis. Come lo vedi Maciulis a Siena? Ma Maciulis, dipende, il suo infortunio è stato grave, l'ha tenuto lontano dai campi praticamente un anno, nel momento in cui, credo che, se non ricordo male, con l'Olimpia stesse giocando una stagione assolutamente eccellente, era uno dei due o tre che veramente tirava la carretta. È un giocatore che a mio parere dovrebbe entrare se non recupera Thornton, e ha caratteristiche diverse, ha più fisicità, ha più impatto, potrebbe benissimo essere il trade union tra Thornton e Kaukenas, per quanto Kaukenas verrà, credo, assolutamente recuperato. Quindi, tornando a Cantù, mi sembra di leggere un certo pessimismo tra le pieghe del tuo discorso in prospettiva playoff. Se dobbiamo essere realisti oggi, torno a ripetere, Cantù era la squadra meglio attrezzata come definizione etico-tattica, cioè una etico-tattica. Perché alle spalle di una gestione tattica in cui in campo i giocatori erano sempre disposti al meglio delle loro possibilità, c'era anche un gruppo alle spalle estremamente compatto, estremamente motivato, in cui è stato aggiunto il fuori onda, il pazzo di turno, quello che scardina i giochi, che è Perkins, che è la non è imprevedibilità. Cantù, devo dire, devo darti questa notizia. Vabbè, ma sai, perché lui comunque è funzionale. È funzionale perché come giocatore di rottura, sicuramente, almeno nel campionato italiano, non ce ne sono tanti come lui. Però nella costruzione dei giochi e nella gestione della partita, lui è un pochettino forza centrifuga. Non è lì per quello. No, lui è lì per romperli. Lui è lì per romperli, per dare fisicità e per dare quel tocco di imprevedibilità che qualche volta Cantù non riesce a avere. Ma volendo fare un sofisma tecnico, e allora chi è il vero playmaker di Cantù? Il vero playmaker di Cantù non esiste. Domanda imbarazzante. Non esiste. Questo noi in alto i cuori e ogni bene, ogni fortuna alla Bennett, perché è sempre società e squadra assolutamente emblematica di tutto quello che di buono può dare i basket. C'è Carlo da Torino che ricorda, non ricordate mai l'assenza di Bremer e Rock e un Gentile a mezzo servizio, 800 24 00 24, fuori la voce. Milano sì, Gentile sarà anche stato a mezzo servizio, però ha giocato la sua miglior partita da quando veste quella maglia. Giachetti è stato riscoperto e rispolverato, secondo me, però se Milano deve trovare protagonisti diversi ad ogni giro di pista non è esattamente un segnale incoraggiante, o no? No? Non necessariamente, Carlo, perché no, una squadra non dovrebbe, anzi, una teoria esattamente contraria dice che una grande squadra trova di volta in volta protagonisti diversi, che fa il pari con la teoria invece del minimo comune denominatore, che le squadre devono avere sempre quei giocatori su cui contare. Ah, io vado con Diamantidis, certo. E Battiste nel Panathinaikos, vado con Kirilenko e i miei. È verissimo. Dipende dalla situazione, probabilmente la vera quadratura del cerchio Milano non l'ha ancora trovata, e allora è la tua teoria quella adeguata. Devo dire, e perché non ha trovato la quadratura? Perché prendi Giachetti, io penso di non essere maligno se dico che Giachetti è un indotto dell'infortunio di Bremer. Se sì. Bremer ci fosse stato, noi non avremmo mai visto quel Giachetti, sì. Eppure in una squadra ognuno, magari compresso in un minutaggio limitato, dovrebbe avere una sua funzione, servire a qualcosa. No, ma io credo che Milano, se non amo i pronostici, ma non li amo perché non li azzecco mai, purtroppo, ma credo che ancora oggi sia lei la competitor, sì, competitor per sì. Quanto su una serie al meglio delle sette di competitor, certo. Si parla fino a un certo punto, sì, ma sperando che prima o poi sparisca questa serie delle sette, che in Italia è una cosa delle tante rane, è una distorsione, diventare bue, assolutamente sì. Vedi tu, intanto Milano comunque ha proprio Milano è più lunga, più fisica. Poi adesso aveva tesserato, aveva preso Simmons, però si è fatto male Bremer, allora niente Simmons, e vediamo. Sono queste arriva. Le perplessità, è un mistero, cioè se tu no, non riesco. Perché l'avevano preso Simmons? Prendere Simmons guardiala e avere meno fiducia in Gentile? Segna quello. Sai, d'altra parte Gentile non è che ha sofferto. Sono abbastanza estremista su queste cose. Per me fare la storia dei giovani, ci sono o non ci sono, è una storia abbastanza peregrina. Cioè, far giocare i giovani è una scelta. Se tu gli metti davanti 2, 3 americani o stranieri, che dir si voglia, diventa. Sì, perché puoi dire io lo faccio giocare, però deve giocare bene sempre, perché prendo il paracadute. L'ideale, bravissimo, esatto, paracadute. Deve avere uno più bravo di lui davanti e incominciare a capire che il campo lo si suda, non è regalato. Però basta anche uno di americani davanti, a un giovane di talento come Nando Gentile. Due sono scusate. Non Nando ma Alessandro. Come il figlio di Nando. Palla spicchi. Stavo facendo i conti, stavo guardando le percentuali di Siena ieri sera da 2,36 su 51. Tanta roba, 72 e 48 da 3. Sì, sembra sì. Bevuti 72 da 2 e 48. Vuol dire che Avellino non si è ammazzato in difesa, no. Anche, non si ammazza più in campo proprio. Luca da Fermo, 800 24 00 24, numero verde. Salve Luca. Pronto, ciao. Io volevo un po' capovolgere l'argomento di cui stavate parlando, cioè dai playoff scudetto alla lotta salvezza. Io sono un sostenitore di Montegranaro e con queste fortune di me non vorrei che rimanessimo bloccati a quota 22 e Teramo ci risucchiasse insieme a Casale nella lotta per rimanere in Serie A. Cosa ne pensate? Vi ascolto con la radio, grazie. Sì, insomma, Montegranaro 22 insieme a Caserta, insieme a Biella, insieme a Cremona. Domenica si gioca Biella Casale, Teramo riposa, Casale ha 20 punti, Casale Monferrato ne ha 12, mi sembra molto staccata a Casale, vediamo, mancano. Adesso si gioca tra l'altro una grandinata di partite, comincia subito i playoff, da domenica ogni 3 giorni tutti in campo, quindi anche questo sarà un fattore. Ma intanto io caro Luca, penso che Montegranaro il grande sforzo, la Fabrizio, l'abbia fatto e che abbia raggiunto una struttura organizzativa di squadra importante. È un vero peccato, perché io avevo visto giocare, questo depone a sfavore della mia età, Scott May, è veramente un toro a Torino, ma vedendo giocare il figlio ero rimasto davvero entusiasta, perché era un po' che non vedevo un pivot, un centro con quella tecnica sia di avvicinamento che di conclusione. Quindi è una perdita assolutamente fondamentale e importantissima. Era come avere l'assicurazione salvezza, assolutamente. Ma io credo che Monte l'abbia già raggiunta, e che al di là dell'assenza gravissima rimanga una squadra che ha almeno una partita o due ancora è capace di portarla in cassaforte. Quindi non vorrei portare, diciamo, male, ma non vedrei questa preoccupazione per un ambiente come quello marchigiano, che merita la Serie A. Semmai le preoccupazioni devono essere altre per Montegranaro e per altre squadre che hanno diverse pendenze per il futuro, bisognerà, certo, fare i conti, ricostruire con queste cose, o costruire, però ci vorranno i soldi adeguati e ti dicevo, conti non a caso. Senti, ti porto a mangiare. Allora, domenica c'è Bologna Caserta. Cosa senti mangiare, scusa? Aspetta, ti porto a mangiare, guida Gian Maria Vacirca. Basket Chef. Ormai si gioca sempre domenica, mercoledì, domenica, però ci siamo accorti che in tutto questo viaggio non ci siamo ancora fermati a Bologna. Emilia, buona compagnia, tanta balotta, un bicchiere di pignoletto e un piatto di tortellini. La Virtus, che ormai è sicura dei playoff, sicura come due fette di mortadella per iniziare la cena, in un ristorante classico oppure in un posto nuovo, e ci vai con gli amici per dare un'occhiata e tirare i tardi. Bologna contro Caserta, che salva, ma che è gemellata con la Fossa dei Leoni della Fortitudo, che si sussurra in città e è pronta a tornare in un palazzo dopo una lunga assenza generata dalla querela sul marchio. Ma staremo a vedere e ci concentriamo sulla nostra cena, che qui è importante, perché c'è solo l'imbarazzo della scelta, ma questo lo sapete già. Della Bologna c'è pure la mousse, va provata. Poi ci sono gli involtini di asparagi e prosciutto, fritti, illegali. Crescentine con la coppa di testa, che è la morte sua, e ci fermiamo qui. I primi, qui si va col tris, le tagliatelle bianche al prosciutto, i garganelli con la salsiccia, le lasagne della mamma, eh sì, bisogna proprio mangiarle. Il carrello dei bolliti con la mostarda, la salsa verde e la giardiniera. A chi non garba, una bella grigliata di coppone incastrato con l'immancabile pezzettino di salsiccia, sempre lei. Oppure la cotoletta alla bolognese, fritta con la fetta di crudo e la besciamella. Dolci, non possiamo dire di no. Il salame al cioccolato tira sempre, il mascarpone liscio è una certezza. Il fior di latte invece pure, ma solo se fatto bene. La brazzadella, la ciambella della nonna, bella alta, l'accompagniamo col caffè e un goccio di Montenegro. Buonanotte. E allora mamma, butta la pasta! Ti va bene come menù? Non sono a dieta. Roba circa, caschi malissimo, meraviglioso, meraviglioso. Senti, a volte si mangia anche con gli occhi, dicono. Ah, sicuro, e con le orecchie. No, con le orecchie. Non è che è difficile. È un po' più difficile, ma con gli occhi, noi ci proviamo. Apprezzando un attimo anche la composizione dei piatti, con gli occhi può essere. Ascolta, io che non ho i pronostici, non li becco mai, peggio di te. Come detto, ho ricordato già più volte, si gioca ogni 3 giorni, quindi da domenica si tratta di disegnare la griglia dei playoff. Io azzardo Siena, Cantù, Milano, Pesaro, le prime 4 in quest'ordine. Sì, assolutamente. Sei d'accordo? Sì. Quindi sarebbe semifinale. A ridosso Sassari, che se la giocherà fino alla fine in questo meraviglioso duello dell'underdog dell'anno con Venezia. Eh sì. Quale ti piace di più? No, non mi puoi mettere in questa difficoltà. Sicuramente Sassari è un capolavoro domestico. Di chi? Di Sacchetti, che non usa i video, non usa le lavagne. Però usa due giocatori come i cuginetti. Esattamente, quando hai due giocatori dietro come la premiata ditta Diner and Diner, e quando hai davanti un atleta che supporta il suo atletismo anche con la tecnica, come la loro ala, Easley, e allora diventi veramente pericoloso, perché la gestione, non essendo una squadra lunghissima, ha dietro giocatori come Brian Sacchetti, appunto, ma che entrano dalla panchina e che danno un contributo di grande sostanza. Venezia è veramente, secondo me, il master della stagione, perché è una squadra che viene recuperata quando sapeva di dover affrontare la Lega 2 e in due giorni viene messa dal tribunale in Serie A e fa il campionato che fa. Chapeau a Mazzone e a Brugnaro, voglio dire, e a tutti gli altri. Anche loro, i risultati anche per loro non sono mai così estemporanei, ma frutto di talento, perché talento, adesso che si sia un po' infortunato, ma Kiki Clark è uno che ti risolve delle partite, anche loro talento ne hanno. Sì, hanno aggiunto Zaldaris in settimana. Zerzic è comunque stato un grande acquisto, ma lì si andava sul sicuro. Kiki Clark ha comunque fatto una grande stagione, però io Venezia lì davanti a quest'ora non l'avrei mai vista, né pronosticata, infatti, ma d'altra parte per questo è il master della stagione Venezia. 800 24 00 24, se volete ancora intervenire. C'è chi invece, come ad esempio Cremona, mi è capitato di dirlo, di sottolinearlo anche domenica, con un giocatore ha cambiato la sua vita, perché era una squadra che faceva miracoli in metà campo, cioè quella difensiva, dall'altra parte non beccava mai il canestro, ha messo un giocatore che è in grado di far canestro, che è Rich, e ha risolto tutti i suoi problemi. Secondo te questo elemento di forza o di debolezza, non solo di Cremona ma del nostro campionato, basta uno per cambiare tutto? Per salvarsi sì. Per salvarsi sì. Per vincere no, ma poi soprattutto io vorrei spendere due parole per Attilio Caia. Cioè, non per niente è soprannominato Artiglio, perché quando lui artiglia una squadra che sta per affogare non la molla fino a che non l'ha salvata. E al di là di Rich, il suo sistema è di una semplicità e forse anche di una crudezza, cioè una difesa estenuante, anche tecnica, ma soprattutto di orgoglio. Una difesa mi ha detto guarda, io non ero mai riuscito a fare in tutti i miei, questi anni di carriera, a costruire una cosa simile in così poco tempo sul lato difensivo. Perché gli allenatori, ai miei tempi, anche quando ero giovane, dicevano: dai, ce la devi mettere. Dice: sì, ma ce la metto come? Esatto. Linee di cosa passaggio, cioè flottaggio sul lato debole. È un sistema difensivo che se lo attui, e con quelli scarsi ti salvi, se lo attui con quelli bravi vinci 5 scudetti consecutivi. È così. Senti, invece tu parlavi di Cantù, che comunque è in difficoltà. È in difficoltà Cantù, però anche Bologna, che arriva ai playoff col motore spento. Ma motore, cioè, bene. Bravo. È spento. Non c'è da aggiungere, è forza in folle, forza d'inerzia. Perché? E presto si ferma. Ma perché loro hanno fatto un'operazione quando hanno rilasciato McIntyre per problemi, diciamo anche fisici, Oman per problemi disciplinari, quindi hanno troncato l'asse play pivot. Poi sono andati avanti sull'onda dell'entusiasmo, sulle prestazioni, hanno risostituito un asse che in un certo momento mi ha entusiasmato, che era quella poeta Gigli. I due giocatori, qualche infortunio, qualcosa, si sono logorati. Il loro uomo faro, Sanichidze, che è un giocatore di un atletismo straordinario, però come tutte le cilindrate altissime è anche abbastanza fragile. Per esempio, io Sanichidze lo vedrei bene in una squadra come Milano o come Siena, dove può giocare 20 minuti, ma non in una squadra dove deve giocare 40 minuti, perché poi si rompe, e quindi dietro in panchina, che possono supportare momenti difficili della squadra, la Virtus, purtroppo non ce ne sono. Sotto il vestito niente. Palla spicchi. Dunque, innanzitutto ha ragione l'ascoltatore che scrive che il vero playmaker di Cantù si chiama Vlado Mizzo, ma in questo momento è ai box, pur non essendo ovviamente un playmaker di ruolo, però di fatto è quello che va più vicino a questo ruolo. Vero. Però volevo girarti questi due messaggi. Uno è un po' polemico, Francesco da Roma, l'altro invece è cronaca. Gio da Reggio Emilia, domenica a Bologna potrebbe esserci il ritorno di Reggio Emilia in A1. Beh, non so se lo dici perché sai che io sono nato a Reggio Emilia molto tempo. E quindi la Serie A al Palabigi è sempre una cosa che mi fa felice, perché qualche volta magari c'è anche l'occasione di andare a rivedere gli amici d'infanzia. E sono 2 o 3 anni che ci sta provando e sarebbe l'occasione giusta. È una città dove la qualità della vita, credo, senza nessun campanilismo o sciovinismo, sia abbastanza alto, che sa apprezzare. E quindi, in mancanza del calcio, perché povera la nostra Reggiana Granata, ogni tanto fallisce, il basket potrebbe davvero essere una bella bandiera della città del tricolore, cioè, quindi ce lo auguriamo, ecco. Non vorrei che dirlo con una settimana, con qualche giorno di anticipo, poi facciamo finta di niente, aspettiamo. Allora aspetta. C'è invece Francesco da Roma che scrive: Roma fuori dai playoff è la morte della pallacanestro nella capitale, per la vostra gioia così parlerete solo di Milano, Cantù, Varese, un po' di Siena. Sembra ingiusto, ma comunque tant'è. Io spero piuttosto che Roma riesca a costruirsi un futuro, cosa non certissima. Questo sì. Vabbè, ma io Francesco. Ma io Francesco, che dire? Va benissimo quello che tu pensi, va bene quello che pensa chiunque. La libertà di pensiero è categorica. Non credo che attribuire tifo particolare a persone che non si conoscono serva a coprire le inadeguatezze e le inadempienze proprie, voglio dire. Cioè, tutti, e penso di poter parlare a nome di tutti quelli che amano il basket, se avessero in città come Roma, Torino, anche Milano sta cercando, ma Genova, ci aggiungo, una squadra di pallacanestro forte e competitiva, sarebbe non solo motivo di gioia ma anche di godimento. Purtroppo Milano, noi parliamo di Milano anche perché siamo qua, ma questo non vuole dire che abbiamo canotte biancorosse sotto, nelle grandi città è più dispersivo. Forse aveva ragione Valerio Bianchini nella sua ultima riconversione, perché quando allenava a Roma allora il basket era delle metropoli, adesso forse è più facile farlo, questo è più facile farlo nei piccoli centri dove c'è più unità di intenti e queste cose, certo. Che non vuol dire che non ci manchi e che soprattutto non ci auguriamo che non ci serva per il movimento, che non ci serva, serva tantissimo una squadra Roma forte, che possano ritornare, facciamo i voti, i tempi del banco, certo. Flavio Tranquillo, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno Flavio. Senti, invece volevo guardare alla pagina NBA insieme a te, con i vecchi Spurs, che oggi è anche sulle pagine della Gazzetta argomento di discussione, che hanno il secondo record a 6 giorni dalla fine di questa strana stagione regolare dietro i Bulls, 45 vittorie. Cosa è successo nel regno di Popovic? Ma è successo che una stagione del genere con le 66 in 124 non ti dà tempo di costruire per definizione, allora quelli che hanno già costruito nel passato sono ancora più avvantaggiati, quelli che hanno uno zoccolo duro, qualcosa di solido su cui andare a cercare delle certezze sono più avvantaggiati, e nessuno ha costruito e ha solidificato la propria costruzione come gli Spurs, diciamo in questi 15 anni, ma ancora più in maniera speciale nelle ultime 2 o 3 stagioni, quando con il calo di Duncan, quello che succede normalmente è che tu cominci a perdere e poi forse se sei bravo riapri un ciclo, no? Loro l'hanno riaperto in corsa ed è incredibile. Verte, a Flavio faccio spesso questa domanda: ti ha sorpreso la stagione di Beninelli, che è stato in prospettiva, in valore assoluto forse il migliore dei nostri tre in questa, ripeto, stagione molto strana? No, io non credo, penso che sia, poi Flavio ha un'esperienza e anche una visione dell'NBA sicuramente molto più aperta di me, ma io penso invece che sia che segua una strada logica. Belinelli è un giocatore molto specializzato, per non dire specialistico, è più facile, credo, attribuirgli un ruolo all'interno della franchigia, e naturalmente questo lo ha messo su una lunghezza d'onda tale da lasciarlo sereno e da dare anche il meglio di sé. Flavio, invece la tanto spernacchiata anche da noi Miami, poi leggi a 44-17 e tutto sommato non ha fatto una brutta stagione regolare. Di chi stiamo parlando, perché ti ho perso un attimo? Di Miami, da noi tanto spernacchiata. Ma spernacchiata, intanto comunque Miami la stagione è inutile, è un paradosso, sì. Avrebbe potuto fare 61 o 66-0, sarebbe stata la stessa cosa, 66-0, vincere a 0 le prime tre serie di playoff, essere 3-0 nella serie finale, se avesse perso gara 4 di finale, però c'è qualcosa che non va, Miami sarà giudicata solo per l'ultima partita che giocherà. E se la vincerà, si vorrà anche andare a vedere come l'ha vinta e se LeBron James in quella partita lì è stato il fattore, oppure se l'ha aiutato Wade, oppure se erano scarsi gli avversari, eccetera eccetera. Mi sembra una situazione di quelle che negli Stati Uniti si chiamano no win, in cui non puoi vincere, ecco, loro non possono vincere neanche quando vincono. A me pare troppa pressione per gestirla, e poi hanno comunque una squadra veramente cortissima e piccolissima rispetto agli standard dell'eccellenza assoluta. Però quei due lì sono forti, ma sono forti. Un'ultima cosa, mi viene in mente un parallelo improprio, immaginifico finché vuoi, tra Sassari e Indiana. È possibile. Io non sono così convinto degli Indiana Pacers come una possibilità di riuscire ad andare in fondo o di fare cose importantissime, però è vero che Indiana si è costruita un'identità che è una cosa non così comune nell'NBA, e soprattutto è una squadra che ha una situazione a livello salariale favolosa, nel senso che è già molto competitiva, ripeto, secondo me non competitiva oltre un certo livello, ma molto competitiva, e ha uno spazio enorme sotto il salary cap. Quindi questo potrebbe renderla appetibile per qualcuno che voglia andare lì a cercare di frenare un pochino la leadership delle Chicago e Miami della conference. Ci vediamo domenica sera, Flavio, grazie. Senz'altro, a voi. Ciao, un abbraccio. Ciao. Invece io con te chiudo, perché ho un minuto, chiedendoti un pronostico, così ti faccio un torto, ti faccio un dispiacere, ti metto in difficoltà. Il pronostico che ti chiedo è quello del derby di domenica sera tra Bennett Cantù e Cimberio Varese. Caro Werther Pedrazzi, non guardarmi così. Giocano al Pianella o a Desio? Non me lo ricordo. Cantù. Sì, secco. Domenica sera. Nonostante le assenze. Si gioca alle 21. Si gioca alle 21. Sì. Orario 23. Improvvido. Ti faccio un colpo di telefono, va bene? Cantù 2-0. Grazie a Werther Pedrazzi per essere stato con noi oggi pomeriggio. Franco Piantanida in redazione, Rinaldi in regia con lo sport. Torniamo domani pomeriggio alle 5. Ciao a tutti.